le wenge le wenge. Kale, mujo, Kwame, Gonzalo, Namani, Barak, Mabulani. Dua. Na singina, di mabolani. Na singina, lango, di mabolani. Na singina, di mabolani. Na singina, lango, di mabolani. Bitu barandi mundi, oi pule. Wende wa sababa tuendi mabolane Bana bitu balondi mundi goipule Wende wa sababa tuendi mabolane Nasingi miango bobe nyolako Nanakandota bobe nyolako Koko di mabolane Koko di mabolane Elongi na mundi Nasingina, di mabolane, nasingina lango, di mabolane, nasingina, di mabolane, nasingina lango, di mabolane, bitu baloni mundi oipule, wende wa sababa tue, di mabolane, bana bitu baloni mundi oipule. Wende wa sababa te ni mabolane Nasingi miango bobe nyolango Nana kandota bobe nyolango Oko ni mabolane Oko ni mabolane We, mbana loba Aka Oyoka, oyeba yoloka Ewa, Eba, Melalo, Bene.